24 mattino. Alle 8 e 17 minuti, eccoci ritrovati a 24 mattino, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. E allora ritrovo Deborah Rosciani, eccoci qua Deborah. Sì, buona giornata a tutti, buongiorno Alessandro. Oggi parliamo di banche. Parliamo di banche perché ci ha particolarmente colpito una notizia che è apparsa ieri mattina su tutti i giornali. La notizia è la seguente: 50 banche italiane hanno deciso di abbandonare il consorzio Patti Chiari, i cui vertici ospitiamo spesso nelle nostre trasmissioni. Il consorzio che qualche anno fa, lo abbiamo raccontato molte volte, è nato per garantire la trasparenza e l'informazione finanziaria agli utenti dei servizi bancari. Sono 50 su 150 gli istituti che hanno lasciato il consorzio, anche se la percentuale di sportelli del sistema bancario che ancora aderisce nonostante le uscite si mantiene al di sopra del 70%. Ad uscire sarebbero state banche medio-piccole. Nell'elenco figurano nomi illustri, li ha pubblicati ieri La Stampa. Fra i nomi eccellenti che hanno abbandonato il consorzio ci sarebbero Banca IMI, Fineco, IV Bank, le divisioni private di Monte dei Paschi e Unicredit. Insomma, cosa è successo? Ce lo facciamo spiegare questa mattina dal professor Filippo Cavazzuti, presidente del consorzio Patti Chiari, ma è stato anche commissario Consob e anche docente universitario a Bologna di economia e negoziazione dei mercati finanziari. Professor Cavazzuti, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi. Le ragioni che è stato possibile ricostruire che hanno dettato questa scelta da parte delle banche in uscita sono diverse, ovviamente tutte riportate dalla stampa, ci sono anche delle interpretazioni, forse ha avuto un ruolo anche il caso Lehman Brothers, ma io leggo che vengono considerate troppo costose e impegnative le vostre iniziative. Ci aiuta a capire cosa è successo? Ma guardi, la fuga di notizie in realtà va interpretata come il 75% degli sportelli che hanno aderito, che tra banche grandi, piccole e medie coprono l'intero territorio nazionale. Non mi stupisce in questa fase che alcune banche piccole e medie non abbiano aderito, non per il costo di partecipazione al consorzio che è quasi tutto sostenuto dalle grandi banche, ma perché migliorare i rapporti con la clientela significa mettere le mani ai sistemi informatici. Soprattutto le piccole banche che hanno sistemi di tecnologici affidati in outsourcing alle software house hanno delle difficoltà ad adottare le tecnologie nuove. Non a caso il sistema bancario è definito come il sistema nervoso di un'economia, le banche devono essere tutte interconnesse e ciò si fa sia con la buona volontà degli sportellisti ma soprattutto con l'investimento in nuove tecnologie. Infatti adesso racconteremo anche che il progetto al quale state lavorando in questo momento è il cosiddetto 30 impegni per la qualità, ma esatto. Le chiedo, professor Cavazzuti, lei le ritiene decisioni temporanee o definitive da parte di queste banche in uscita, perché so che lei ha avuto un mandato per come dire, quantomeno instaurare un dialogo per verificare se la decisione possa tornare indietro? Io mi auguro che le banche che ancora non hanno sottoscritto ci ripensino, perché mi sembrerebbe strano che una parte non enorme ma insomma significativa del sistema bancario non accettasse questa sfida molto impegnativa dei 30 impegni per la qualità. 30 impegni per la qualità sono un punto di svolta importante nei rapporti fra il sistema bancario e la clientela. Sono molto impegnativi, certo, su questo non c'è alcun dubbio. Secondo lei che cosa deve pensare un cliente di una banca che è uscita dal consorzio? Cosa vuole che le dica? Io sono il presidente del consorzio, andrei a chiedere alla banca perché è uscita dal consorzio e perché non adempie gli impegni, i 30 impegni per la qualità, perché vede, rispetto al passato, prima il consorzio era come un self-service, uno decideva quale menu scegliere, oggi l'impegno è di tutti i 30 impegni in contemporanea che devono essere realizzati, è un impegno significativo. E allora sentiamo come dovrebbe rafforzarsi questo impegno con i 30 impegni per la qualità. Professor Cavazzuti, a che cosa state lavorando? Ma noi stiamo lavorando a un sistema di semplificazione di tutti i rapporti e i progetti riguardano, per dirle, i tempi di riscossione degli assegni, la velocità del trasferimento del mutuo da una banca a un'altra banca. Questo si fa con sistemi informatici, non è che il dipendente di una banca possa telefonare al dirigente di un'altra banca dicendo che il cliente XY decide di trasferire il mutuo. È un sistema informatico che deve dialogare, il che richiede investimenti non irrilevanti, me ne rendo conto, e questo forse è la difficoltà delle banche piccole e medie, ma si tratta di investire. Per esempio, il conto corrente è facile, l'indicatore di prezzo, nel senso che un soggetto si presenta allo sportello e ha la possibilità di scegliere fra diversi pacchetti, che so, conto corrente più carta di credito o più riscossione del RID, e gli si offre l'occasione di un prezzo unico per tutti questi servizi. Quindi un mutuo, l'ho detto, il conto corrente è facile, la riscossione degli assegni, e quindi tutte quelle provvedimenti, quelle iniziative che agli sportelli velocizzano e rendono più certo sia la trasparenza che il costo dei servizi offerti agli sportelli. Professor Cavazzuti, dopo l'infortunio di Lehman Brothers, la sezione sul sito di Patti Chiari dedicata alle obbligazioni a basso rischio è stata sospesa, riaprirà tra poco, a breve? Ma guardi, l'infortunio di Lehman Brothers è un problema dell'infortunio del governo americano che ha fatto fallire Lehman Brothers in modo che nessuno si aspettava. A questo punto noi penseremo di rimettere in ordine tutti gli indicatori che vengono offerti alla clientela, perché il mercato sarebbe molto, molto peggiore se non avesse tutte quelle serie di informazioni. Certo, quelle informazioni vanno lette con giudizio. E questo dipende dall'educazione finanziaria. E allora mi lasci dire l'ultima cosa, l'altro grande impegno del Consorzio Patti Chiari è investire in educazione finanziaria. Ecco, tra l'altro un impegno che voi avete portato avanti in questi anni anche con la collaborazione delle associazioni dei consumatori. Credo che siano 14 le sigle che hanno aderito alle vostre, ai vostri progetti. Se questa uscita delle 50 banche dal consorzio creasse un problema anche con le associazioni dei consumatori, professor Cavazzuti? Ma io penso proprio di no, nel senso che le 14 sigle che hanno aderito hanno trovato molto interessante questo impegno, lo sostengono, con loro collaboriamo e quindi non vedo quale problema ci sia fra il consorzio e le associazioni dei consumatori. Non so se ci siano qualche problema fra le associazioni dei consumatori e le banche non aderenti, ma questo va chiesto alle associazioni dei consumatori. Lo appureremo. Professor Cavazzuti, la ringrazio molto per essere stato con noi questa mattina, per averci aiutato a capire qualcosa in più rispetto a questa notizia che ieri abbiamo letto sui giornali. Buona giornata e grazie, a presto. Grazie, buona giornata a tutti. Buon lavoro. Voi. Alessandro. Tra poco, Deborah, alle 12. Guarda, oggi a Salvadanaio andiamo dietro ad un tema che ci metterà sicuramente un po' in difficoltà, perché cerchiamo di capire un po' di più del piano casa alla luce di quanto ha detto ieri il Premier, che ha un po' rimescolato le carte. Alle 12.30 c'è l'incontro con regioni Stato, quindi tutto in diretta. Presa diretta. Le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle ultime notizie. Oggi l'incontro governo-regioni per discutere sul piano casa. Ieri il presidente del Consiglio Berlusconi ha frenato. Circola un testo non mio, ha detto. Per ora il piano varrà solo per le ville e non per gli immobili urbani. Ed è giallo su una lettera che il presidente della Repubblica Napolitano avrebbe inviato a Berlusconi, facendo riferimento alla necessità di tener conto del parere delle regioni. Primo sì al federalismo fiscale, ieri l'approvazione alla Camera con 319 voti a favore, il PD si è astenuto mentre l'UDC ha votato contro. Un risultato salutato con soddisfazione dal leader della Lega Umberto Bossi, ormai è fatta, tutti si sono pentiti e hanno perso i loro dubbi, tranne Casini, ha detto. Voglio rimanere in Italia e fare il pasticcere, così Carol Racci, il rumeno accusato ingiustamente dello stupro alla Caffarella, ha parlato ieri a Porta a Porta. A proposito della prima confessione del suo amico rumeno, ha detto: non mi spiego il motivo per cui mi abbia potuto accusare, siamo sempre stati amici, l'ho aiutato anche economicamente. Infine il calcio, continuano a Coverciano gli allenamenti della Nazionale verso le partite di qualificazione ai Mondiali 2012. Il CT azzurro Lippi, sulla mancata convocazione di Cassano, dice: non è un'assenza ingombrante, non devo spiegazioni a nessuno. In Serie A intanto il Torino cambia ancora allenatore, via Novellino, tocca a Giancarlo Camolese. È il momento, come di consueto a quest'ora, del commento del direttore del Sole 24 Ore sul federalismo fiscale approvato in prima battuta alla Camera. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Dunque, da ieri l'Italia è un po' più federale, ma che cosa cambierà? E quando con il federalismo fiscale? Dopo l'approvazione definitiva del Senato ci vorranno 2 anni per i decreti attuativi, altri 5 di transizione. La chiave dell'intero provvedimento sta in un passaggio molto difficile. I servizi essenziali come sanità, istruzione e assistenza sono oggi coperti da trasferimenti statali incrementati ogni anno sulla base della spesa storica. Con il federalismo fiscale le regioni dovranno pensarci con tributi propri o con partecipazioni e imposte nazionali come l'IVA, ma non più sulla base della spesa storica che premia gli inefficienti, ma sulla base dei costi standard della regione più efficiente. Un fondo perequativo poi compenserà le eventuali differenze. Insomma, chi spreca dovrà renderne conto ai propri cittadini direttamente, ai quali magari sarà costretto a chiedere più tasse. L'obiettivo però è quello di pagarne meno di tasse, soprattutto nelle regioni che trasferiscono allo Stato più risorse di quelle che investono nel proprio territorio. E dunque non dovrà più accadere che la stessa prestazione medica costi 2 in Lombardia e magari 10 nel Lazio o in Calabria. Ma per questo si dovrà passare dalle spese storiche, cioè a piedi lista, ai costi standard più efficienti. Rinsavire da vizi radicati e interessi diffusi poco trasparenti, difetti secolari. Cambierà tutto in pochi anni? Speriamo. Buona giornata. Grazie e a domani con Ferruccio De Bortoli l'Asterisco alle 8:33 minuti. Il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. Come anticipato, l'antitrust, al termine di un'indagine durata più di 2 anni, ha bacchettato letteralmente gli ordini professionali in Italia. Si voleva studiare gli ordini e capire se si sono adeguati alla riforma Bersani del 2006, quella delle liberalizzazioni. Il risultato sancito dall'antitrust è abbastanza duro. Oggi sostanzialmente nessuno dei meccanismi inventati per portare un po' di concorrenza nei servizi, secondo l'antitrust, ha funzionato. Colpa della legge annacquata, ma colpa soprattutto dell'epica resistenza delle categorie. Questo ha sancito l'antitrust. Chissà se è d'accordo con questo un collega, giornalista, scrittore, Antonio Galdo, che saluto. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Antonio Galdo, allora, innanzitutto ha pubblicato da poco Non sprecare, un libro uscito da Einaudi, ma se affondiamo un po' le radici nel passato, Antonio Galdo ha anche scritto nel 99 un libro dal titolo profetico, Guai a chi li tocca, no? Un'Italia un po' delle corporazioni. Sei stupito da questa sentenza dell'antitrust? Assolutamente no, perché in Italia sono 30 anni che cerchiamo di modernizzare le professioni e l'organizzazione, l'architettura istituzionale che sta alle loro spalle. Sono 30 anni che è un po' come il ponte sullo stretto di Messina, sono 30 anni che facciamo commissioni, leggi, leggine e sostanzialmente non riusciamo a vincere questo muro di gomma. È un problema, secondo me, non soltanto di leggi, ma è un problema etico. Se nel mondo delle professioni non vince un'idea di interesse nazionale, di maggiore accesso alla professione, maggiori opportunità per tutti, evidentemente non ci sarà ministro e non ci sarà presidente dell'antitrust che regga. Tra l'altro ha bacchettato un po' tutti l'antitrust, notai, commercialisti, psicologi, medici, odontoiatri, giornalisti, avvocati, ingegneri, architetti, anche se leggevo da un articolo di Sergio Rizzo, credo che siamo arrivati a 72 albi professionali in Italia e c'è qualcuno che ne vorrebbe di più, proposte di legge per i cuochi, per gli stenotipisti, per gli antropologi esistenziali, che chi, non lo so, io non si offenderanno se io non li conosco come figura professionale. È ignoranza mia. Insomma, siamo un popolo un po' così di... Sì, questo altro non è che lo specchio di un paese molto corporativo che ha nel suo DNA questo aspetto, un paese dove la politica nelle interviste, nei talk show dice di voler riformare, ma in realtà poi molto spesso, come avviene appunto a proposito degli ordini, presenta proposte per aumentare gli ordini, un paese dove, ripeto, quello che più lascia sconcertati è che in questo modo si producono due effetti, si blocca l'ascensore sociale. Siamo un paese pieno di medici figli di medici, giornalisti figli di giornalisti, commercialisti figli di commercialisti, e siamo un paese dove in questo momento, a proposito di non sprecare il talento, le opportunità, ci sono 40.000 ragazzi che studiano all'estero, ma studiano all'estero, attenzione, non perché ritengono che possano formarsi meglio, ma studiano all'estero per restare all'estero, proprio perché sono scoraggiati dall'idea che in questo paese l'accesso alle professioni, l'accesso cioè al mercato delle opportunità professionali sia letteralmente bloccato. Ancora due dati, dall'85 al 2005, dunque in 20 anni gli iscritti agli ordini sono passati da 867.000 ai rotti a 1.827.000, più 110%, i commercialisti sono cresciuti del 212%, i geologi del 174%. Una delle, cose per cui l'antitrust ha bacchettato gli ordini sono le tariffe minime. Io voglio salutare Laura Bertolazzi, buongiorno. Buongiorno. Medico veterinario, direttore sanitario di Animal City a Torino, in Piemonte, insomma, credo operi, no? Sì, sì, il principio basilare, mi sembra di capire, di quello che avete fondato è: diamo la possibilità anche alle famiglie che hanno, che non hanno i mezzi economici, insomma, per garantire tutte le cure agli animali, a fare tariffe minori. Mi faccio un esempio di una tariffa ridotta rispetto alla tariffa minima che prevede l'ordine. Ecco, ad esempio, noi per una visita medica completa facciamo pagare all'associato un ticket di 13 euro. 13 euro a fronte di? A fronte di un 30-40 euro di una prestazione normale. Ma ci sono i cani che abbaiano sotto di lei, è straordinario, un medico veterinario non potrebbe fare altrimenti, non le rubiamo molto tempo per dar cura ai suoi pazienti. Senta, risultato, lei è stata sospesa dall'ordine? Io sono stata sospesa sì più volte dall'ordine, perché ritengono che non sia giusto e lesivo per la dignità di un veterinario far pagare delle cifre sotto i minimi dell'ordine. Io ritengo che la qualità di una prestazione di un medico non dipenda dalla tariffa, perché altrimenti vorrebbe dire che se io vado a farmi operare in ospedale sono operato male, se mi opera lo stesso medico in una clinica privata mi opera bene. Continua insomma questa battaglia, è stata sospesa credo due volte, una terza. Sì, e continuiamo, non mi amano molto i colleghi veterinari, perché cioè, non vogliono assolutamente che determinate prestazioni siano sotto determinate tariffe. D'altra parte, una persona che abbia uno stipendio medio normale, io credo che non riesca a permettersi in tanti casi di pagare una prestazione medica, un'operazione 1.000-1.500 euro. Però mi faccia fare l'avvocato del diavolo, mi faccia fare quello che potrebbe dire il presidente del suo ordine. Lei insomma fa anche una concorrenza sleale, si può dire, cioè nel senso abbassare i prezzi, se uno è nell'ordine sta nell'ordine. Ma io credo che insomma appunto la libera concorrenza debba aprire a tutti i cittadini la possibilità di rivolgersi al professionista che vuole. Come io come cittadino vado da un medico nella struttura sanitaria e non pago, così posso andare nella struttura privata e pagare. Devo avere la libertà di scegliere da chi andare. Quindi secondo me i minimi non sono giusti. Tra l'altro, Antonio Galdo, so che Bersani era riuscito a fare passare un provvedimento che eliminava sostanzialmente i tariffari, cancellava anche per esempio il divieto di fare pubblicità. Ci sono molti avvocati che hanno fatto pubblicità e che cosa è successo? Che gli ordini dicono ma bisogna mantenere il decoro della professione, quindi non si capisce poi il livello del decoro, chi lo stabilisca, e il risultato è che bloccano queste iniziative. Sì, l'ordine sostanzialmente in Italia serve a proteggere lo status quo e a proteggere, attenzione, questo è un elemento di cui si parla poco ma secondo me è molto importante, una oligarchia che è quella dei professionisti dell'ordine. Se prendiamo gli ordini professionali ci accorgiamo che alle loro spalle ci sono strutture amministrative, burocratiche, elefantiache, quindi c'è un vero e proprio ceto professionale che si alimenta sulla attività degli ordini, che sostanzialmente poi consiste nel fare in modo che non si tocchi nulla. In America, ma non solo in America, anche in Germania, in Francia, sui giornali c'è la pubblicità degli avvocati matrimonialisti, per esempio, che si fanno appunto la concorrenza attraverso le tariffe. Comincia a affacciarsi anche in Italia, si vede, però effettivamente è un po' osteggiata da sì, alcuni ordini professionali. Perché gli argomenti sono generalmente molto pretestuosi, appunto perché cosa c'entra il decoro con una normale attività di mercato? Vede, se vogliamo essere realisti, gli ordini purtroppo non sono, diciamo, cancellabili in Italia, ma se dovessimo proprio individuare una funzione moderna degli ordini, e sarebbe una funzione importante, ce ne sarebbe una che loro potrebbero svolgere, ed è quella di occuparsi, direi in modo quasi esclusivo, della formazione professionale delle categorie. Ecco, questa sarebbe un'attività utile e necessaria, anche serve un aggiornamento continuo oggi per un professionista. Invece gli ordini altro non sono diventati in Italia che delle piccole barricate in un paese diviso per tribù. Laura Bertolazzi, lei si sente dentro o fuori al suo ordine, o è un problema che non si pone? Ma io sinceramente mi sento un po' fuori, soprattutto perché sono stata boicottata tutti questi anni in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi sinceramente mi sento un po' boicottata, sì. Nonostante immagino i clienti vengano, perché poi insomma laddove i prezzi sono più accessibili caso, cioè, per fortuna i clienti vengono anche per la qualità dei servizi che diamo, oltre che per il prezzo, perché io credo che ad ogni modo chiunque, se si rivolge a una struttura e non si trova bene, nonostante il prezzo, non andrebbe più, ecco. Per cui, cioè, è chiaro che la gente viene da noi perché abbiamo i prezzi bassi, ma io sono anche contenta che vengano da noi perché ad ogni modo hanno una qualità di servizio buona. Allora, io nel ringraziarla la lasciamo ai suoi cani, insomma, che dietro di lei si lamentavano, li sentiamo al telefono. E allora, grazie Laura Bertolazzi, così come ringrazio Antonio Galdo, voglio ricordare ancora, ha scritto a suo tempo, guai a chi li tocca, l'Italia è ostaggio delle corporazioni, ma più recentemente, se volete leggere il libro più recente, Non sprecare, edito da Einaudi. Grazie a entrambi. L'ultima parte di 24 Mattino, voglio salutare il senatore Oscar Peterlini. Senatore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senatore della Südtirol Volkspartei, la SVP. Allora, si discute tanto del piano casa, noi ne vogliamo parlare in quest'ultima parte con una proposta che lei ha fatto, anche con un'interrogazione al ministro Tremonti, che può sembrare in prima battuta, non so, una butade, invece è una cosa che lei propone in maniera concreta. Per risolvere il problema della casa, lei propone, come si fa in alcuni paesi europei, la lotteria. Ma è davvero così? Mi sembra un'idea almeno degna di essere esaminata seriamente. Il punto è che in Italia, ma non solo, i prezzi degli immobili sono caduti, ma sono soprattutto tutto il settore fermo, cioè c'è una mancanza di richiesta, perché, per farla molto semplice, la gente non ha, le famiglie non hanno più soldi da acquistare, le banche sono molto più rigide nel dare disponibilità di credito, e dall'altra parte chi vende non vuole abbassare perché naturalmente ha pagato a un prezzo più alto. E tutto questo ha immobilizzato tutto. In questa situazione hanno incominciato già in Inghilterra a cercare di mettere in internet con un sorteggio, praticamente con una lotteria, la propria casa. Però in Inghilterra l'azione è stata bloccata perché la legislazione prevede un monopolio assoluto per lo Stato. Mentre il tutto poi ha funzionato in Austria. In Austria, infatti lei nella interrogazione al ministro Tremonti ha portato il caso concreto. Allora, giusto per capire come dovrebbe funzionare, c'è una signora in Austria che voleva vendere una casa da 400 metri quadri, evidentemente non trovava nessuno che la comprava a quel prezzo, e allora che cosa ha fatto? Una lotteria online ha detto: comprate un biglietto da 99 euro, attenzione, appena 99 euro, io ne venderò di questi biglietti 9.999 e poi ci sarà l'estrazione, insomma. Per cui il risultato è che uno ha comprato con 99 euro un biglietto e la signora invece ha ottenuto quanti soldi vendendo tutti quei biglietti? Ha ricevuto quello che voleva, 800.000 euro. E uno si compra una casa, o meglio vince una casa alla lotteria con 99 euro. L'idea è molto banale, molto semplice, se vuole. Qual è l'inghippo? Cioè, perché secondo lei è difficile applicarla? No, io l'ho posta come interrogazione al ministro con due quesiti. Il primo è quello: se lui ritiene che nonostante la rigida legislazione italiana sulle lotterie sia possibile attuare questo sistema che solierebbe un po', darebbe più slancio a questo mercato immobilizzato, no? O se questo non fosse possibile, noi, il ministro, il governo non ritenga utile approfondire questa idea e possibilizzare questa lotteria anche in Italia. È un po' questo che propongo. Ma senta, lei cos'è? Un'idea che le è venuta così e l'ha trovata un'idea geniale per sbloccare il mercato immobiliare? Perché non sono davvero tanti paesi che lo fanno. Lei dice in Inghilterra è stato provato ma è stato bloccato. Forse ci fu un esempio in Spagna di uno studente che ha messo la sua casa anche lì. Le situazioni sono più o meno tutte molto rigide perché lo Stato, come in Italia anche, ci mette un occhio molto severo ed è giusto sulle lotterie, però d'altra parte non è che siano vietate, sono possibili sotto un certo controllo dello Stato e diciamolo anche apertamente con un grande incasso da parte dello Stato, no? Perché lo Stato una buona parte dell'introito se lo porta via lui, ma tutto quanto insieme mi pare, cioè il vantaggio perché mi è venuto a me è perché noi come zona di confine Alto Adige Südtirol siamo un po' avvantaggiati sia linguisticamente che con i contatti che abbiamo, no? Ah, lei ha studiato, cioè ha scoperto questo caso in Austria per motivi anche linguistici e di vicinanza. Certo. E poi devo dirle anche che il settore immobiliare, gli intermediari hanno rivelato questa cosa, hanno visto che in Austria funziona. Il mercato è molto molto più sciolto in Austria. Questa iniziativa ha dato uno slancio incredibile. E penso, adesso sono molto curioso cosa mi dirà il governo, io l'ho anche proposta per la question time, che sarebbe forse interessante discutere sì. Anche pubblicamente. Ma insomma, una riffa napoletana, qualcuno potrebbe dire. Ma non viene da Napoli, viene dal nord, dal centro Europa. Comunque, secondo lei ci può essere questa possibilità? Cioè, d'altronde effettivamente sembra un affare per tutti, per chi vende la casa, che magari non riuscirebbe a vendere sul mercato, è un modo per riuscire a venderla. E chi la compra se la porta a casa, che ne so, con 100 euro. Un esempio. 100 euro, no? Sì, certo. Potrebbero naturalmente anche essere definiti diversamente. Questo che di cui stiamo parlando, dell'esempio pratico, era una villetta molto prestigiosa nel verde, con tanto di bosco intorno, con terreno, perciò valevano i propri soldi, no? Ed ha funzionato, ma io posso immaginare che si possa anche fare su più piccoli somme, su appartamenti, diciamo così, più modesti, certo. Familiari. E lei prevederebbe anche ovviamente di rispettare tutte le questioni fiscali, che ne so, una percentuale per le tasse sui giochi d'azzardo, una percentuale al notaio, una percentuale, cioè tutto quello, preservando tutto quello che chiede il fisco sostanzialmente. Ecco, certo, così Tremonti speriamo abbia più allettanza di discutere questa proposta. Vabbè, senatore Peterlini, io non so quanto questa proposta possa avere le gambe lunghe o le gambe corte in Italia. Devo dire che noi la lanciamo qui, gliela rilanciamo. Non lo so se la lotteria delle case possa essere lo strumento giusto. Si parla tanto di piano casa, magari ci si è concentrati su quello. Devo dire che lei ha avuto questa invenzione, questa proposta, non lo so, ci spera anche lei? Oppure? Io spero di sì, vede, il piano casa incontra molte obiezioni, anche opposizioni da parte nostra, che noi abbiamo competenze a riguardo, ma non solo noi ma anche le regioni, e siamo stati molto molto attenti all'ambiente, allo sviluppo di questo ambiente, chi viene in Alto Adige Südtirol lo può anche osservare e vedere questa cura di questo rispetto verso la natura, e noi non vorremmo che per adesso, con la possibilità poco controllata, proprio solo l'ampliamento senza rispettare queste regole, porti a una distruzione dell'ambiente. Mi pare che in questa crisi tutte le idee sono richieste e sono da apprezzare, da approfondire, però uno slancio come l'hanno approvato in Austria mi pare meno violento verso la natura, e nonostante questo ha dato una bella scossa a un mercato immobilizzato. Va bene, e comunque staremo a vedere. La ringrazio, senatore Peterlini, Oscar Peterlini della SVP. Se sentiremo anche la risposta, seguiremo questa notizia come tutte le altre che lanciamo. Auguri per la proposta della lotteria delle case. case. Ci fermiamo qui anche per oggi. Ringraziamenti a Laura Marchesi e Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Tra poco parliamo con l'Elefante, con Giuliano Ferrara, che oggi si concentra sul Partito Democratico, in particolare sui giovani del Partito Democratico. Voi potete scriverci una mail, ovviamente, come di consueto, 24mattino@radio24.it. Questo è il modo per contattarci e noi, come di consueto, ci ritroveremo domattina alle 7:30, minuto più, minuto meno.